Faccio un tuffo sotto il sole, fa già un caldo che si muore. Quest'estate non si dorme, me la bevo come un cocktail. Questo ritmo che mi muove, i problemi sono altrove. Che cuffie sulla testa, viaggio sotto l'ombrellone. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve. Uscire e fare le sette. Ho voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te. Spengo tutto per due ore, che mi scorda anche il mio nome. Bevo birra con limone, senza ghiaccio per favore. Andiamo non so dove, diplomiamoci in hangover. Scottiamoci la pelle e poi cambiamoci colore. Prendiamoci le stelle, che il resto non ci serve. Almeno fino a settembre. Ho voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Soltanto con te, non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle io e te, fino a che nasce il sole. Le giornate così lunghe, notti sempre troppo corte. Che ti svegli sulla spiaggia, col rumore delle onde. E mentre la notte finisce, dimmi che male c'è. Se mentre ballo con lui io penso ancora a te. Ho voglia di andare più forte, non ci basterà questa notte. Voglio vedere le luci dell'alba cambiare colore. Voglio ballare con te, soltanto con te. Non chiedo la luna, ma ballo con te. Lasciamoci tutto alle spalle.